140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie e il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account chiocciola Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studirai via Mecenate, Milano. Torna The Voice, il talent di Rai 2, con Raffaella Carrà, nuovi giudici. Dolce Nera, Max Pezzali e... Emi Schilla, che dice è una grande opportunità. È una porta sul mondo della televisione spalancata e una vera opportunità, quindi insomma ho già avuto delle esperienze televisive però molto, molto ridotte, no? Anche robe belle comunque, però insomma non ho avuto ancora occasione di partecipare a quei programmi come questo, dove realmente cambia la percezione degli italiani su di te, no? Questo è comunque un programma che si rivolge soprattutto a un pubblico molto diverso dal mio, perché comunque io non ho un pubblico Rai, no? Se fossi andato magari in altre emittenti televisive sarei già stato più vicino al mio mondo. Qua invece è proprio un giocarsi tutte le carte, quindi spero di, insomma, di colpire appunto i telespettatori in maniera positiva, spero che si facciano una bella idea di me, è la cosa che più mi interessa, no? Io sono non criticato, però diciamo è facile avere i pregiudizi nei confronti dei rapper, questa cosa di avere tanti tatuaggi, la faccio un po' da furbetto, no? Quindi ti etichettano sempre come il bad boy, così in realtà penso di essere molto più di questo e spero di poterlo dimostrare e manifestare durante la trasmissione. Stavo pensando a te, una donna qua giù come tanti, che vuoi essere al passo con le altre e mi riempi l'armadio di scarpe, che mi svuoti la testa in un'ora, ma se sbaglio diventi un sicario, che sai essere dolce in un bacio, anche quando c'è in bocca l'amaro. E stavo pensando a noi, una coppia qua giù come le altre, che riescono nel loro piccolo, anche se pensano in grande, che hanno preso la vita per gioco, cavalcando i binari di un treno, che si prendono insulti per poco, e si vogliono per molto meno. Pensavo a me, col mondo in mano, ma senza te, dov'è che vado? Con tutta questa voglia di brillare su in cielo e di scordarmi chi ero senza di te. Pensavo a te. E alla musica cosa può dare il fatto di incontrare tante persone, incontrare un format del genere che ti permette di incontrare talenti? E sicuramente di crescere, perché comunque oltre ad essere dei coach lavoreremo in studio con i ragazzi, ascolteremo tantissima musica. E poi appunto nel mio caso soprattutto ci sarà un'opportunità di crescita per via dell'età, sono il più piccolo qua dentro, quindi sicuramente potrò attingere da altre parti, no? Da Max, da Dolce Nera, da Raffaella, e insomma sarò un po' nel mezzo, imparerò da loro e insegnerò qualcosa ai ragazzi. I ragazzi però magari possono essere anche più grandi di te, eh? Esatto, però come ho già detto a qualcuno, in realtà non mi metto in soggezione questa cosa. Comunque se ci sono io da questa parte della poltrona, forse ho capito qualcosa che semplicemente ancora loro non hanno capito. O magari è stata una botta di culo, non so cosa dirti. Tanto tua mamma mi guarda i tattoo, chissà se sapesse che sotto ne ho molti di più. Poi mi chiede fai sport, di dove sei, dove vi siete conosciuti tu e lei. Io dico al concerto di Lana Del Rey, anche se eravamo tutti ubriachi ad un rave. Non sanno nulla di noi, no. Di quello che vuoi, tu di quello che vuoi, ma tuo padre ti guarda come fossi una santa. Cioè, cosa pensa che facciamo quando dormi da me, eh? Domani sera vengo a cena dai tuoi, cosa gli hai detto e cosa sanno di noi? Loro vorrebbero un ragazzo più chic, con una laurea e un lavoro, ma te piaccio così, forse però non piaccio a loro. No, no. Non piaccio a loro. No, no. Non piaccio a loro. No, no. Non piaccio a loro. Che tuo padre non mi offre da bere, prendo io il vino, mi riempio il bicchiere, più mando giù più la sanoce. Tu per il talent non sei passato, che come la vedi come strada però per chi segue strade diverse dalla tua? Guarda, io sono onesto, sono sempre stato scettico nei confronti dei rapper, ai talent come concorrenti, perché il rap lo vedo un po' come un mondo a parte. Io ho fatto in tempo a vivermi la vecchia scuola, quindi comunque le jam session nei parcheggi, il freestyle in strada, le battle di freestyle, e di conseguenza sono un po' scettico appunto nei confronti di chi prende questa scorciatoia nell'hip hop, tant'è che non ho cercato di non prendere i rapper praticamente, no? Perché per rimanere coerente con la mia idea e anche perché i talent show hanno cercato di corteggiare il rap. Esatto, non mi è piaciuta molto questa cioè nel momento in cui il rap è esploso, è diventato mainstream, partì all'inizio dopo tanti anni di silenzio con Fabri Fibra, che fu il primo, diciamo, a fare da apripista poi, no? E poi in seguito sono venuti Dogomar, io, Fedez, insomma tutti noi, no? C'è stata un po' appunto questa roba dei talent che hanno, cioè da che nessuno si, da tutti snobavano il rap, tutti hanno iniziato a fare rap, a dare retta ai rapper, a volerli ai talent show. E quindi anche tutti quelli su cui sputavano, tra virgolette, su questa roba, sulla TV, così poi in realtà sono andati a fare i concorrenti ai vari talent, no? Io rispetto le scelte di tutti, voglio dire, ognuno è libero di fare quello che vuole, qualcuno probabilmente non rispetterà il fatto che io sia comunque un talento a fare il giudice, no? Però le vedo come due cose completamente diverse. Cioè io faccio parte di questa esperienza da affermato, non devo dimostrare di saper fare i dischi, voglio dire, per quantomeno per chi mi ascolta, no? Per qualcuno non saprò mai fare i dischi probabilmente, cioè poi quali sono pareri, ognuno al suo. Però non, insomma, boh, l'hip hop la vedo come una cosa genuina che debba rimanere comunque in strada, quantomeno all'inizio. Ultima cosa, sei capace di fare dischi? Quanta voglia hai di farne adesso? Tantissima voglia, sono sempre a lavoro comunque, quindi anche in questo momento sto lavorando a dei brani e non vedo l'ora comunque appunto di uscire con il mio prossimo lavoro. Comunque l'essenza di tutto quello che faccio è, si riconduce a un unico atto, che è il live, no? Cioè la mia vita è comunque sul palco davanti ai ragazzi a esibirmi, insomma, non c'è niente di più bello che vedere i ragazzi che cantano una tua canzone nata da te, una penna e una stanza, voglio dire, no? Penso che sia una cosa impagabile e difficile da esprimere a parole, ecco. Comunque la faccia da furbetto ce l'hai, non te la puoi togliere, la radio non si vede ma ce l'hai. La faccia da furbo? Penso se avevo la faccia da scemo, meglio così. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Emi Schilla. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.